spesso toglie, ma che a volte poi ridà. C'è qualcosa di nuovo che ora dorme di là. Per un sogno che arriva ce n'è un altro che se ne va. Lui si siede, pensa e accende la TV. Sente un vuoto dentro per chi non c'è più. Poi si alza, va nell'altra stanza e guarda lei. La sfiora con la mano e si ritrova negli occhi suoi. Ora lo sa, ora lo sa che senso ha, che senso ha. E si sente vero camminando in mezzo al cielo. Diversa, c'è una luce di là che riempie e riscalda dentro il freddo dell'anima. C'è qualcosa di dolce che ora dorme di là. Per un amore che passa ce n'è un altro che resterà. Lui esce in giardino, cammina e guarda in su. Sente tenerezza per chi non c'è più. Poi rientrava nella sua stanza e guarda lei. La sfiora con la mano e si ritrova negli occhi suoi. D'autunno e c'è Gaia di là, è la vita che toglie.